Letture di Radio 24. La scrittrice italiana di origini somale, Jaba Shego, commenta sulle pagine dell'Unità lo scarso utilizzo fra i giovani della sua generazione del preservativo. Ogni anno in Italia infatti vengono venduti sempre meno preservativi e tra i più giovani si diffondono percezioni false e sbagliate sul preservativo che, oltre ad essere uno dei più sicuri contraccettivi, è anche un valido strumento di difesa contro le malattie sessualmente trasmissibili. Capita a tutti di parlare ogni tanto di sesso con le amiche, con gli amici. C'è chi lo fa con pudore e chi invece fa una telecronaca dettagliata. Ultimamente, però, ho notato che molte conversazioni sull'argomento hanno un inquietante punto in comune: il non uso del preservativo nei cosiddetti rapporti occasionali o nei rapporti iniziati da poco. C'è chi ancora insiste con il coito interrotto, altri che ti dicono «il preservativo ti costringe a fermarti e interrompe la passione». Ho sentito anche «mi dà allergia» oppure «mi vergogno di comprarlo». A questo punto pongo la stessa domanda. Non hai paura dell'AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili? Le risposte vanno dal «sono fatalista» al «non mi succederà mai». Le persone che conosco sono mediamente informate, leggono i giornali, sono colti, vanno alle mostre, amano Chopin o Caetano Veloso. Ma sull'argomento prevenzione AIDS, molti di loro sono analfabeti, peggio, sono kamikaze. E il resto dell'Italia come sta? Male, direi. L'acquisto dei preservativi scende di anno in anno, causa l'alto prezzo, il più caro in Europa, e l'informazione latente. C'è ancora molta confusione tra contraccezione e prevenzione. Tra i più giovani capita spesso di sentire «non uso il preservativo perché la mia ragazza prende la pillola». A molti ragazzi e ragazze non è chiaro che l'unico modo per difendersi dall'AIDS, ma anche da sifilide, clamidia, herpes vaginale, gonorrea, ulcera molle, scabbia, è il buon vecchio condom. L'Italia ha avuto un picco di vendite solo nel periodo del grande allarme AIDS, ma oggi la gente è tornata ad essere incosciente. C'è però chi in questo deserto cerca di fare qualcosa. Penso a siti come www.comodo.it, qui sul preservativo c'è veramente di tutto e per nostra fortuna anche di più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «I kamikaze del sesso» di Jaba Shego, pubblicato dall'Unità di mercoledì 12 gennaio. Letture di Radio 24. Nel dibattito economico degli ultimi mesi si sono spesso sentiti paragoni fra Italia e Germania, specialmente sui tassi di crescita tedeschi, sulla loro competitività nel mercato internazionale e sulla loro abilità nel conquistare investimenti esteri. Ma non sono solo i paragoni economici ad avvicinarci alla Germania. Le storie di unificazione delle due nazioni, infatti, conoscono molti punti in comune. Sentiamo quali in questo articolo di Danilo Taino per il Corriere della Sera. L'Europa è scossa da una Germania sempre più forte, in politica e in economia. L'Italia celebra i 150 anni della sua unità piuttosto disorientata. Tra queste due colonne, il professor Angelo Bolaffi, storico, germanista, direttore dell'Istituto di Cultura Italiano di Berlino, dice che è necessario passare per capire che il futuro italiano è legato a quello tedesco, come lo è stato il passato di un secolo e mezzo. «Sono le due grandi nazioni europee in ritardo nelle unificazioni nazionali», dice, «mentre altre erano già imperi, Germania e Italia erano paria, occupate. Hanno poi seguito strade in parte diverse, ma questo punto di contatto ha contato e conta ancora oggi. Le due nazioni non sono mai state arcinemiche, come lo sono state Francia e Germania. Il rapporto italo-tedesco è controverso nella storia drammatica del Novecento». Ciò nonostante, Bolaffi ritiene che vada messo su un piedistallo solido, anche per capire il presente. Per questa ragione, l'Istituto di Cultura Italiano di Berlino, l'ambasciata italiana nella capitale tedesca, l'Università Humboldt organizzeranno il 3 e 4 marzo un convegno per mettere a confronto Camillo Cavour e Otto von Bismarck, i padri nobili dell'unificazione delle due nazioni. Una relazione sarà tenuta da Gian Enrico Rusconi, l'altra da Volkswang Schieder. I due statisti non si incontrarono. Cavour morì nel 1861 e Bismarck diventò primo ministro prussiano nel 1862. ma i punti storici che li uniscono sono almeno due. Il primo è semplice, sostiene Bolaffi. Quando nel 1861 Vittorio Emanuele diventò re d'Italia, all'unità completa mancavano ancora il Veneto e Roma. La vera unità si realizzò nel 1871, con lo spostamento della capitale da Firenze a Roma. Ma per arrivare a questo, noi beneficiammo di due episodi decisivi. Nel 1866, la vittoria prussiana contro l'Austria, in una guerra che per noi fu la terza di indipendenza. E nel 1870, la vittoria dei prussiani sui francesi, che fino a quel momento si erano opposti a Roma italiana. Il secondo sta nel modello italiano, che a rovescio rispetto a quanto succede oggi, fu un punto di riferimento in Prussia. Fare come in Italia, si diceva a Berlino dopo il 1861. Quando il generale Giuseppe Govone nel 1866 tornò dalla capitale prussiana dove era stato inviato per discutere l'alleanza anti-austriaca, disse che Bismarck è il nostro Cavour, in carne ed ossa. In qualche modo, la nazione italiana e quella tedesca nascono assieme, usandosi e copiandosi. I due modelli di unità nazionale sono diversi, dice Bolaffi. L'Italia costruisce uno Stato nazionale su una nazione che esiste da secoli. La Germania riunisce con la spada e con il sangue una nazione che non c'era. Qualcosa che lo stesso Bismarck ammetterà essere stata una follia. Anche perché l'Italia unita è piuttosto periferica. La Germania invece rivoluziona tutto in Europa, indecisa se essere una nazione tra le altre o essere un impero. Nonostante ciò e nonostante le lontananze politiche tra Cavour, un liberale, e Bismarck, un autoritario, i due paesi si affermano in parallelo come potenze europee. Erano diversi in politica interna, ma ambedue usarono la guerra e la pace per raggiungere l'obiettivo dell'unità nazionale, aggiunge Bolaffi. In più, caratteri simili tornano continuamente. Il cattolicesimo, la forza dei movimenti operai. C'è una grande rottura dopo la caduta della Repubblica di Weimar e con l'alleanza tra nazismo e fascismo. Ma poi il rapporto riprende con Adenauer e De Gasperi, che parlano di Europa in tedesco, da cattolici. Dice qualcosa oggi questa storia? Molte cose, risponde Bolaffi. Per esempio che di fronte a un'iniziativa europea dell'Italia, la Germania non alza il sopracciglio, non si domanda quale sia il secondo fine, come fa con la Francia. Ci dà fiducia. È una strada segnata dalla storia, forse andrebbe percorsa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'Italia guardi ai tedeschi, il futuro sono loro, di Danilo Taino, pubblicato dal Corriere della Sera di giovedì 13 gennaio.